America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, domani si vota in Indiana, stato molto importante. Perché? Perché chi vince prende tutti i delegati, e questa, devo dire, non è una cosa da poco, perché arrivati ormai come siamo addirittura a finale, per Trump, se dovesse vincere, si tratterà, come dire, di chiudere la partita, mentre invece per Cruz, che voleva cercare di evitare che Trump potesse avere un numero sufficiente di delegati per assicurarsi alla convention di Pittsburgh la nomina, avrà fallito nel suo obiettivo. Dunque, per questo, nonostante abbiamo già avuto molte elezioni importanti, oggi l'Indiana è importante. Qual è la situazione? Trump il 39% dei sondaggi, Cruz il 35%, Kasich il 17%. Dunque la differenza è minima. E allora dov'è che stanno combattendo ferocemente questi due concorrenti? Perché ovviamente la battaglia è fra Trump e Cruz. Uno immaginerebbe politica estera, educazione, occupazione, economia. No, la battaglia è fondamentalmente sulle toilette e sui transgender. Pensate, sentiamo Trump. People go, they use the bathroom that they feel is appropriate. There has been so little trouble. Qui avete sentito Trump che interviene per primo sulla questione dei bagni. Perché? Perché qualcuno gli chiede come la pensa su una legge che è stata approvata recentemente in North Carolina, che vieta delle misure antidiscriminatorie nei confronti di gay, lesbiche, bisessuali e transgender nell'utilizzo di bagni pubblici. Donald Trump dice: ma per me, se qualcuno si presenta alla Trump Tower ed è un transgender, può usare il bagno che crede sia più appropriato per lui o per lei. I just have two more words to say. Obama up. Barack Obama, devo dire, resta un personaggio straordinario. Intanto questo saluto commovente ha fatto un po' come il campione di basket Kobe Bryant quando nella sua ultima partita con i Lakers ha lasciato cadere il microfono salutando il pubblico. Lo stesso ha fatto Barack Obama, ha fatto cadere il microfono per terra e ha detto Obama out, e se n'è andato tra applausi scroscianti di tutti. Perché? Perché aveva fatto una serie di battute. La tradizione americana è quella di scherzare sempre a questa cena, lo hanno fatto tutti i presidenti prima di lui, e a un certo punto così c'è anche un piglio un po' serio qualche volta. Quindi Obama comincia a fare il serio e dice: so che questo momento è arrivato e dunque io voglio ringraziare la stampa libera, perché è fondamentale per la democrazia. Poi si ferma e dice: ma basta, ma lo so cosa volete che vi parli di Trump? E quindi fa un paio di battute. Intanto ai repubblicani in sala dice: so che voi siete imbarazzati nella vostra scelta, non sapete se scegliere carne o pesce. Eppure qui oggi si può scegliere solo fra carne e pesce, riferendosi all'imbarazzo della leadership repubblicana che vorrebbe non scegliere tra Cruz e Trump e vorrebbe avere un candidato di valore diverso, soprattutto se ci rendiamo conto che i due parlano a questo punto di toilette. Dopodiché una frecciata a Donald Trump. Insomma, dice: voi pensate che Trump non abbia esperienza di politica estera? Ma insomma, questo non è vero, io lo rispetto molto, perché ha passato anni a incontrare i leader in giro per il mondo. Pensate, Miss Svezia, Miss Argentina, Miss Azerbaijan. A quel punto l'addio vero, il grande applauso a un presidente che finora di toilette ancora non ha parlato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Barack Obama ha partecipato per l'ultima volta alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, li ha salutati, dunque, di Jeff Buckley, Last Goodbye, l'ultimo addio. Our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. This is a- Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!